tirano fuori la parte migliore nei casi di emergenza, sono loro che capiscono per prime, sono loro che si caricano sulle spalle gli impegni e quindi vengono prima loro di noi sicuramente. Bisogna che tutti i padri vogliano bene alla madre dei loro figli.